Il terzo anello ad alta voce. I Buddenbrock di Thomas Mann. Thomas Buddenbrock prendeva la prima colazione nella sua elegante sala da pranzo quasi sempre solo, perché sua moglie lasciava molto tardi la camera, essendo spesso soggetta nella mattinata all'emicrania e a un malumore generale. Il console si recava poi subito nella Mengstrasse, dove erano rimasti gli uffici della ditta. Faceva la seconda colazione nel mezzanino insieme con sua madre, con Christian e Ida Jungmann, e si ritrovava con Gerda soltanto per il pranzo verso le 4 del pomeriggio. L'andamento degli affari mantenne in vita e in moto il pian terreno. I piani di sopra, invece, del grande palazzo della Mengstrasse, erano alquanto vuoti e solitari. Con la morte del console Johann Buddenbrock, ogni vita di società si era spenta nella Mengstrasse e, prescindendo dalla visita di qualche reverendo, la vedova non si trovava più intorno a altri ospiti se non i membri della famiglia il giovedì. Suo figlio, invece, e la sposa di lui avevano già dato il primo ricevimento. Un pranzo che era stato preparato nella sala e nella stanza di soggiorno, un pranzo con tanto di cuoca, di camerieri e di vini forniti da Kistenmacher, un pranzo che era incominciato alle 5 e si era protratto con i suoi odori e rumori fino alle 11. Erano stati presenti tutti i Langals, gli Hagenström, gli Huneus, i Kistenmacher, gli Overdick e i Möllendorf, commercianti e intellettuali, coppie di coniugi e suitier. E la riunione si era conchiusa con Whist e con alcuni pezzi di musica. Dopodiché se ne era parlato in borsa per una settimana con le più cordiali espressioni di elogio. Si era notato che effettivamente la giovane signora sapeva fare gli onori di casa. Quella sera il console, rimasto solo con lei nelle stanze illuminate dagli ultimi resti delle candele, fra i mobili in disordine, nell'aria pesante e dolciastra, pregna degli odori di cibi, profumi, vini, caffè, sigari e fiori sparsi sulla tavola o appuntati sugli abiti delle signore, le aveva stretto le mani dicendo: «Brava, Gerda, molto brava. Non abbiamo avuto motivo di vergognarci. È una cosa molto importante. Non ho affatto voglia di dedicarmi ai balli e di far saltare qui in casa i giovanotti, non ci sarebbe neanche lo spazio. Ma alla gente posata dobbiamo offrire buoni bocconi in casa nostra. Un pranzo così viene a costare un po' di più, ma sono denari spesi bene». Alle 11:30 il console si era seduto per la colazione accanto a sua madre, la quale gli lesse questa lettera. «Mia cara mamma, ti prego di perdonare, perché è proprio una vergogna che non ti abbia ancora scritto da una settimana che sono qui. Devo dire che Monaco mi piace moltissimo. Dicono che l'aria rafforza i nervi e, per il momento, anche il mio stomaco è in perfetto ordine. In genere bisogna far l'abitudine a molte cose, come potete immaginare, e si tratta di un paese straniero. C'è la moneta alla quale non si è avvezzi. C'è la difficoltà di intendersi con la gente del popolo, con le persone di servizio, perché io parlo troppo svelta per loro e loro parlano un gergo incomprensibile. Poi c'è il cattolicesimo e sapete che io lo odio e non ne ho alcuna stima. Ieri l'altro i Niederpower hanno dato una serata molto ben riuscita, per quanto io non fossi in grado di seguire sempre la conversazione e benché il tono fosse qualche volta un po' equivoco. Più di tutto mi sono divertita a discorrere con un certo signor Permaneder. Avreste mai immaginato che uno possa chiamarsi così? Un commerciante di luppolo, uomo simpatico e spiritoso, non più giovane ma scapolo. Era il mio cavaliere a tavola e mi intrattenni volentieri con lui perché era l'unico protestante della compagnia. Pur essendo infatti un buon monacense, la sua famiglia è oriunda di Norimberga. Mi assicurò che conosceva benissimo di nome la nostra ditta e tu puoi figurarti, Tom, quale gioia mi abbia fatto il tono rispettoso con cui lo diceva. Volli sapere con precisione quanti fossimo in famiglia e in notizie del genere. Si informò anche di Erika e persino di Grünlich. Si fa vedere ogni tanto dai Niederpower e domani verrà probabilmente con noi al lago di Würm. E ora addio, cara mamma, non posso più scrivere. se sarò viva e sana, come dici tu, rimarrò qui ancora 3 o 4 settimane e poi parleremo a lungo di Monaco, poiché per lettera non saprei da che parte incominciare. Alla fine di aprile la signora Grüllich rientrò nella casa paterna e benché avesse vissuto un altro brano di vita, benché riprendesse la vecchia esistenza e fosse costretta ad assistere nuovamente alle devozioni e a sentir leggere lei a Gerhard nelle serate di Gerusalemme, era evidentemente di umore gaio e animata di buone speranze. Prese poi l'abitudine di correre ogni qualvolta si udiva suonare il campanello sul pianerottolo per vedere chi entrava. Chissà perché. Probabilmente lo sapeva soltanto Ida Jungmann, l'educatrice e vecchia confidente di Toni, che ogni tanto le diceva: «Toni, bimba mia, vedrai che verrà. Non vorrà mica passare per villano». I membri della famiglia erano grati ad Antoni per la sua serenità. Gli animi avevano bisogno di essere sollevati, specialmente perché i rapporti fra il principale della ditta e suo fratello minore, anziché migliorare con l'andar del tempo, erano dolorosamente peggiorati. L'iroso disprezzo che Thomas nutriva per suo fratello e che questi sopportava con pensosa indifferenza si manifestava in quelle sottili inezie che appaiono soltanto tra i membri di una stessa famiglia costretti ad appoggiarsi l'uno all'altro. Quando, per esempio, si discorreva della storia dei Buddenbrook, Christian era portato qualche volta, benché poco si adattasse alla sua natura, a discorrere della sua città natale e degli antenati con affetto, con serietà e ammirazione. Allora il console interrompeva il discorso con qualche gelida osservazione. Era una cosa che non tollerava. Disprezzava talmente suo fratello che non gli permetteva nemmeno di amare ciò che lui stesso amava. Dall'armonia, il circolo di lettura maschile dove aveva passato un'oretta dopo la seconda colazione, il console Buddenbrook ritornò nella Mengstrasse. Passò nell'androne e chiese in cucina se suo fratello era in casa. Lo avvertissero subito quando ritornava. Dopo mezz'ora, durante la quale non si era udito altro che il grattare delle penne e la tossetta nervosa del signor Marcus, il console guardò dalla finestra e vide Christian che stava venendo. Il console si alzò e, passandogli vicino senza guardarlo, disse: «Senti, caro, due parole». Christian lo seguì. «Posso anche infischiarmene se fai il buffone per conto tuo». «Ma ti proibisco, hai capito bene? Ti proibisco di compromettere la ditta come hai fatto ieri sera». Christian non rispose. Si passò soltanto una mano sui capelli rossicci ormai radi e, serio in volto, girò intorno gli occhi distratti e smarriti. Seguì una pausa. Thomas passeggiava disperato. «Tutti i commercianti sono imbroglioni, dici tu?» riprese. «Sta bene. Sei stufo della tua professione? Sei pentito di esserti messo a fare il commerciante? A suo tempo hai ottenuto dal babbo il permesso...» «Sì, Tom», replicò Christian soprapensiero. «Preferirei certo continuare gli studi. All'università si fa certamente una bella vita. Ci si va quando si ha voglia, spontaneamente. Si sta a sentire come a teatro». «Sì, come a teatro. Purtroppo al caffè Shantana a fare il buffone, quello sarebbe il tuo posto. Dico sul serio. Sono convintissimo che quello sarebbe l'ideale che hai in mente. Già, Tom, fece Christian un po' rattristato e ripassandosi la mano sul cranio. È proprio vero, hai detto bene. Dunque lo riconosci? Gridò Thomas fermandosi e incrociando le braccia sul petto. Lo ammetti umiliato e tuttavia continui per la vecchia strada. Ma sei forse un cane, Dio del cielo? Bisogna pure avere un po' di orgoglio. Via, Christian, la mia pazienza è esaurita. E arretrò di un passo facendo un gesto violento con le braccia orizzontali. Poi soggiunse: esaurita, ti dico. Tu ti fai pagare come procuratore, ma non metti mai piede in ufficio. Ma non è questo che mi esaspera. Vai pure e spreca la tua vita come hai fatto finora. Però tu ci comprometti tutti, in tutti i modi. Tu sei un bobbone, una piaga nel corpo della nostra famiglia. Tu fai del male in questa città e se questa casa fosse mia, ti caccerei fuori, là, fuori dalla porta. Gridò abbracciando con un largo gesto il giardino, il cortile, l'androne. Non sapeva più dominarsi. Il livore accumulato in tanto tempo si scaricava. Ciò avveniva alla fine di maggio del 57. E già ai primi di giugno Christian partiva per Amburgo via Buchen, con grave perdita per il circolo, il teatro civico, il Tivoli e tutte le gaie compagnie della città. Il campanello squillò alla porta d'entrata e, secondo la sua nuova abitudine, la signora Grüllich uscì sul pianerottolo per guardare nel vestibolo oltre la ringhiera verniciata di bianco. Ma appena laggiù la porta si aprì, ella si sporse dalla ringhiera, poi balzò indietro, si premette il fazzoletto sulle labbra, raccolse con l'altra mano le sottane e salì di corsa un po' curva in avanti. In quel momento la vedova Budenbrock era nella stanza dei paesaggi e lavorava a maglia con due lunghi aghi di legno. Faceva uno scialle o una coperta o qualcosa di simile. Erano le 11 del mattino. Ad un tratto la domestica. «Ecco, signora!» disse la ragazza. «Ci sarebbe un signore, ma non parla il tedesco e mi sembra piuttosto chiacchierone». «Pregalo di favorire!» disse la signora. Dopo pochi istanti riaprì la porta vetrata e fece passare un uomo atticciato che nella penombra della stanza si fermò un momento e fece sentire un saluto strascicato. i miei doveri. Poteva avere 40 anni. Corpulento, con le estremità corte, portava una giacca aperta di panno marrone, il panciotto chiaro a fiorami che seguiva dolcemente la curva del ventre e sul quale faceva bella mostra una catena d'oro con un mazzo di ciondoli, un'intera collezione di gingilli di corno, di osso, d'argento e di corallo. I baffi biondi, radi e pendenti a frangia sopra la bocca conferivano alla sua testa sferica, col naso grosso e i capelli piuttosto radi e scomposti, un che della foca. La mosca che portava sul labbro inferiore era invece, a differenza dei baffi, sitolosa e stava un po' all'insù. Le guance erano straordinariamente grasse e gonfie e risalivano in certo qual modo fino agli occhi che erano ridotti a due fessure sottili e azzurre, ai cui angoli si formavano le zampe di gallina. Ciò dava a quella faccia tumida un'espressione mista fra la collera e la bonarietà onesta, ingenua e commovente. In una delle mani corte, bianche e grasse, teneva il bastone. Nell'altra un cappellino verde alla tirolese ornato con un ciuffo di peli di camoscio. La signora Budenbrock si era tolta gli occhiali e stava ancora appoggiata al cuscino del sofà nell'atto di alzarsi. «In che posso servirla?» disse gentilmente ma con voce ferma. Il forestiero depose risolutamente il cappello e il bastone sul coperchio dell'armadio, si fregò poi soddisfatto le mani libere, guardò la signora con gli occhietti chiari ed enfiati e disse: «La prego, signora, di scusare per via del biglietto. Non ne ho altri sotto mano. Mi chiamo Permaneder, Alois Permaneder di Monaco. La signora avrà forse sentito il mio nome dalla sua signora figlia». Disse tutto ciò con voce rozza nel suo buffo dialetto bavarese, ma ammiccando continuamente, in confidenza, dalle fessure degli occhi come per dire «noi ci siamo già capiti». Ora la signora si era alzata e gli andava incontro col capo chino su una spalla e le mani tese. «Oh, signor Permaneder, è proprio lei! Certo, mia figlia mi ha già parlato di lei». «So quanto ha contribuito a renderle piacevole e divertente il soggiorno a Monaco. Ma come mai è capitato nella nostra città?» «Un affaruccio», rispose Permaneder, agitando in aria la breve manina. «Un piccolo affare, signora, con la birreria della Valkmühle. Ma la cosa principale è questa, che desideravo tanto presentare i miei ossequi alla signora e rivedere la signora Grülich, ragione sufficiente per avventurarmi in questo viaggio». «Mille grazie», disse la signora cordialmente, porgendogli ancora una volta la mano con la palma all'insù. «Ma ora farò avvertire mia figlia», soggiunse alzandosi e andando a tirare il cordone ricamato che pendeva di fianco alla porta vetrata. «Oh, sacripante, come sono felice!» esclamò Permaneder, girandosi col seggiolone verso la porta. «Come sono felice!» ripeté, osservando distratto le tappezzerie, il grande calamaio di Sèvres sullo scrittoio e i mobili. Poi disse più volte: «Caspita, che croce! È proprio una croce!» E andava grattandosi le ginocchia e sospirando senza alcun motivo plausibile. Così passò all'incirca il tempo che ci volle perché comparisse la signora Grülich. Thank you. Tony lo salutò con molta vivacità, avvicinò una sedia e si mise a discorrere delle sue settimane monacensi. La conversazione filava senza ostacoli e la signora Bodenbrock la seguiva facendo a Permaneder cenni incoraggianti, traducendo in lingua qualche sua frase dialettale e appoggiandosi allo schienale del sofà contenta di aver compreso. Circa la durata del soggiorno in città si espresse in modo molto vago, ma quando la signora disse «Aspetto da un momento all'altro mio figlio per la colazione e lei, signor Permaneder, vuole farci il piacere di prendere con noi un po' di pane e burro?» Egli accettò l'invito prima che fosse interamente pronunciato, così prontamente come se l'avesse aspettato. Il console arrivò, lanciò una rapida occhiata alla sorella e salutò il signor Permaneder con la più deferente cortesia. «Fate la bella vita voi altri», osservò Permaneder sedendosi e abbracciando con uno sguardo i cibi freddi che erano in tavola. Ogni tanto rivolgeva la parola ai presenti, servendosi della seconda persona plurale, con l'aria più innocente di questo mondo. «Non è birra di Monaco, signor Permaneder, ma sarà sempre più potabile di quella locale». E il console gli versò il porter bruno e spumeggiante che lui stesso beveva di solito a quell'ora. «Mille grazie, compare!» esclamò Permaneder masticando e senza notare lo sguardo esterefatto che gli lanciava la signorina Jungmann. Beveva però il porter con tanta parsimonia che la signora Bodenbrock credette opportuno mandare a prendere una bottiglia di vino rosso. Dopodiché egli si animò e riprese a discorrere con la signora Grünlich. Per via della pancia stava un po' discosto dalla tavola, teneva le gambe divaricate e per lo più lasciava spenzolare dal bracciolo della sedia un braccio con la mano bianca e grassoccia, mentre chinando un po' la grossa testa dai baffi di foca sopra la spalla, ascoltava le parole e le risposte di Tony con un'espressione di pacato malcontento e con un confidente ammiccare delle fessure degli occhi. Per lo stupore, madamigella Jungmann dimenticava di masticare il boccone che aveva in bocca e fissava senza parola gli occhi castani e lustri sullo strano ospite, tenendo, come di consueto, il coltello e la forchetta verticali sulla tavola e agitandoli lievemente. Quell'ambiente non aveva mai ascoltato un linguaggio simile, non si era mai riempito di un simile fumo di pipa, non aveva mai visto un comportamento così disinvolto e maleducato. La signora Bodenbrock, dopo essersi informata con apprensione dei disagi a cui doveva essere esposta una così piccola comunità evangelica in un paese tutto cattolico, continuava a non comprendere il dialetto bavarese e a non poter quindi seguire la conversazione, e anche Tony si era fatta piuttosto pensierosa e irrequieta. Il console, invece, si divertiva un mondo. Indusse perfino sua madre a far portare una seconda bottiglia di vino rosso e invitò il signor Permaneder a fargli visita nella via larga. Sua moglie ne sarebbe stata lietissima. Dopo ben 3 ore dal suo arrivo, il negoziante di luppolo accennò a volersi accomiatare. Pulì la pipa, vuotò il bicchiere, disse che non so che cosa era una croce e si alzò. «Ebbene?» domandò Thomas fermandosi sulla soglia ed estraendo una sigaretta dall'astuccio con la troica. Le sue spalle erano agitate dal gran ridere. «Simpatico», disse sua madre in tono innocente. «Dico anch'io». Poi il console si volse con comica galanteria verso Tony, come per chiedere umilmente anche il suo parere. Ella tacque e continuò a guardare davanti a sé. «Direi però, Tom, che potrebbe fare a meno di bestemmiare», soggiunse la signora Bodenbrock un po' accorata. «E forse è anche un po' troppo trascurato nei modi, non ti pare, Tom?» «Che vuoi, è un meridionale», disse il console. A questo punto la signora Grünlich si volse e disse a voce alta: «So che in questa vita non ha importanza il modo in cui si dice una cosa, ma il modo come la si sente nell'anima. E se tu vuoi farti beffe delle espressioni del signor Permaneder, se per caso lo trovi ridicolo...» «Ma no, Tony, non ci penso nemmeno. Perché ti riscaldi così? Ah sì, ah sì, intervenne la madre, gettando al figlio un'occhiata seria e implorante come per dirgli «lasciala stare». «Tony, non mettere il broncio», disse lui. «Non volevo mica stuzzicarti». «Bene, adesso scappo e dispongo perché uno dei facchini vada a prendere la valigia. Arrivederci». Elsa Agalbato ha letto I Buddenbrock di Thomas Mann, riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.